Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Pillole di Ecologia. Dopo queste sfavillanti vacanze natalizie di buon anno, ritorniamo su Radio ZM dopo la nostra fantasmagorica sigla. Qui con me c'è sempre Dave, in collegamento virtuale dalla Danimarca. Come stai, Dave? Sto bene, grazie. E tu? Bene, bene. Dai, non c'è male. Siamo sopravvissuti a questo freddo polare che ha invaso il nord Italia. Come sono state le vacanze invece su da voi? Cioè, a livello... Carine. È stato carino. Cioè, mi è piaciuto non essere in Italia e fare il solito capodanno con tutti i piazzoni, ma è andato bene uguale. Ho mangiato uno schifoso. Bravo. E da me un sacco di fuochi artificiali. Sì, eh. Non ho mai visto così tanti nella mia vita. Bomba. Ogni direzione. Bellissimo. E niente, e dopo un lungo riposo finalmente si torna a Radio ZM. Esatto. Allora, abbiamo pensato per la puntata di oggi, che ricordiamo è sempre registrata, in differita, quindi soltanto per queste volte che non riusciremo a essere in diretta in radio, tutti i vari canali della radio, quindi Instagram, quindi la pagina Facebook, e quindi su Telegram, la chat dove potete scrivere solitamente, non vi possiamo rispondere in diretta. Se ci scrivete vi risponderemo, che volete chiederci qualcosa, commentare, mandarci dei teneri saluti, vi risponderemo in differita. Esatto. Comunque, dicevamo, per la puntata di oggi abbiamo pensato di approfondire un tema che si avvicina un po' a quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che sono le glaciazioni. Esatto. D'inverno si vive una glaciazione, di fatto, in un modo o nell'altro. Certo. Però in effetti, cioè, pensarci adesso è più o meno così, perché sì, cambia la temperatura e quindi fa più freddo. Certo. E detta è il modo più semplice in assoluto di descrivere una glaciazione. Ok, bene, abbiamo finito qui per stasera. Grazie Dave, è stato un piacere. E, no, vabbè, a parte le stupidaggini, le glaciazioni, le ere glaciali, come vengono chiamate, che danno anche il nome a un bellissimo cartone animato. Esatto. Dalle mie minuscole e, diciamo, sicuramente insufficienti reminiscenze della scuola, le glaciazioni sono tipo dei lunghi periodi di freddo. Esatto. Dunque, premetto che io lo studio delle glaciazioni sta ai climatologi e ai geologi soprattutto, perché spesso i climatologi sono dei geologi a cui piaceva il clima. Ok. Quindi la mia preparazione non è eccezionale, però grazie anche al supporto di Wikipedia e alcuni altri siti ho cercato di tappare le lacune. Ringraziamo tutti i nostri piccoli droidi e robottini che ci aiutano, da quelli i nostri personali a quello ad esempio in radio, che ci permette di streamare a manetta tutto il giorno, tutta la notte, fare vari programmi, eccetera eccetera. Ringraziamo tutti i nostri R2D2. Esatto. Quindi grazie al tuo R2D2. Grazie al mio R2D2 ho scoperto che, ho ripassato che le glaciazioni sono un argomento interessantissimo, di cui si sa abbastanza poco. Cioè, prima di doverlo studiare all'università non è che ne sapessi così tanto, però è veramente interessante. Ok. In primo luogo, la prima cosa che secondo me è interessante è il fatto che non c'è una sola era glaciale. Ok. E non è che, 100.000 anni fa faceva freddissimo e quindi si è congelato tutto e poi così a caso si è sciolto tutto e siamo arrivati ad oggi. Okay. Le ere glaciali sono periodi più freddi del normale anzi, in realtà la definizione di era glaciale è un periodo in cui nei poli della Terra ci sono calotte glaciali. Quindi c'è l'Antartide coperta di ghiaccio, perché adesso c'è l'Antartide al polo sud, e la Groenlandia. Ok. Però non è sempre stato così. Per esempio, al tempo dei dinosauri non c'era il ghiaccio nei poli, c'era molto più caldo. Quindi, tecnicamente, in questo momento stiamo vivendo in un'era glaciale. Che storia. Questo è interessante. Sì. Poi, senti, visto che dice che non ce ne sono state più di una, no? Sono stati vari periodi. Qual è stato il primissimo periodo glaciale? Il primissimo risale a diversi miliardi di anni fa. Ok. E quando ancora la vita sulla Terra era fatta di batteri, essenzialmente. E di quello non si sa molto. Si sono solo trovati dei resti nei sedimenti. Ok. Nel passato un sacco. Si dice, questa si chiama glaciazione uroniana. Urca. Ed era tra 2 e 2.5 miliardi di anni fa. Quindi prima che succedesse qualsiasi cosa di interessante. Ok. Poi, però, c'è stato un altro periodo che si chiama criogeniano. Che già il nome ti fa capire che facesse veramente freddo. Criogeniano. Che avvenne tra 800 e 600 milioni di anni fa, in cui alcuni ricercatori sostengono che la Terra si sia congelata completamente fino all'equatore, e che magari solo all'equatore c'era una piccola zona che non fosse congelata. E questo è interessantissimo perché subito dopo che è finito questo periodo è iniziato il periodo ordoviciano, no, il periodo, il paleozoico, la era paleozoica, con il periodo cambriano forse, in cui, sì, col cambriano, in cui c'è stata la prima vera esplosione di biodiversità a livello pluricellulare. E quindi c'erano gli animali più strani in assoluto. Invito tutti a cercare su Google la fauna del paleozoico e soprattutto del cambriano, perché sono animali da fantascienza, bellissimi, okay. Sono tra i miei preferiti. Però vabbè, ce n'è uno che si chiama... Se tu fossi... Cioè, diventerai mai un tipo venditore di animali preistorici? Ti giuro che io ti darei qualsiasi somma dopo questa descrizione per comprare un piccolo animale preistorico. No, ce n'è uno, cioè così, giusto per fare una digressione, ce n'è uno che si chiama allucigenia, perché quando un archeologo l'ha trovato pensava di avere le allucinazioni quando lo stava guardando. E tutti hanno tutti animali, nomi tipo... strano animale così, oppure bizzarro, oppure anomalo. Ce n'è uno che si chiama Anomalocaris, che è tipo gambero anomalo, una roba del genere. Super predatore. Vabbè. Comunque, questa esplosione di vita è subito dopo il periodo criogeniano. E si pensa che... Allora, in questo periodo, per mettere le cose in ordine... ancora non esistevano gli alberi, ancora non esisteva la vita sulla terraferma. Zero. La terra era tutta integralmente deserta. Quindi la vita era tutta nell'acqua e essendo sotto questo strato di ghiaccio è riuscita miracolosamente anche a sopravvivere, e questo la dice lunga su quanto ci abbia... qual è un modo non... sessista di dire il cazzo duro o i coglioni quadrati, una forte motivazione, esatto, una persistenza, servono un po' di neologismi, accidenti, sì. Insomma, tostissima, la vita è tostissima ed era sopravvissuta per non 100 anni, per 150 milioni di anni sotto il ghiaccio, nell'oscurità più totale. È resistita e anzi è diventata fortissima, perché quando i ghiacci si sono sciolti c'è stata un'esplosione di biodiversità, però erano tutti più o meno artropodi, e questo era il criogeniano. Okay. E non si sa tanto che cosa vivesse durante quel periodo, perché non ci sono molti resti fossili. Si iniziano ad avere tantissimi fossili da subito dopo che finisce. Ok, quindi poi nel corso del tempo, passando da quando vivevano i dinosauri senza ghiaccio in assoluto su tutta la Terra, a periodi invece più freddi, si è passato a varie ere glaciali. Ci sono state diverse ere, però comunque tutta l'età dei dinosauri, quindi ci sono un po' di ere, c'è il Paleozoico, poi c'è il Mesozoico e poi c'è il Cenozoico. Il Cenozoico è quello dove siamo noi, il Paleozoico è quello mega vecchio, e poi c'è il Mesozoico in mezzo, che è quando c'erano i dinosauri. In quel periodo non ci sono state glaciazioni, che si sappia. Quindi è tutto un periodo molto caldo, in cui non ci sono calotte glaciali sulla Terra, né a nord né a sud, e quindi non ci sono ere glaciali. E in particolare faceva così caldo, c'era tantissima anidride carbonica nell'atmosfera, per qualche ragione, e quindi anche se ci fossero state oscillazioni nella temperatura, queste non sarebbero state, non si sarebbero raggiunti dei punti bassi sufficienti da creare quella che chiameremmo glaciazione. Ok. Poi, tutto finché, circa 34 milioni di anni fa, inizia una tarda glaciazione, cioè una glaciazione nel tardo periodo cenozoico, che è il nostro, okay. In cui la temperatura inizia a scendere. Inizia a scendere e iniziano ad esserci dei punti in cui raggiunge un valore così basso da formare calotte glaciali. Ok. E l'ultima glaciazione, che è quella che interessa soprattutto a noi, è quella che ha coinvolto anche gli umani. Perché okay. Noi fino ad allora non esistevamo, cazzocene. Cioè, eravamo magari una scimmietta da qualche parte. Tra l'altro c'è il Pleistocene, l'Antropocene e il Cazzocene. Esatto. Il Cazzocene è quello di cui non parla nessuno. Perché è esatto. Deve ancora succedere. Forse. Ok. Vabbè, scusami, non volevo abbassare il livello del tuo, della tua conoscenza, del tuo sapere. E praticamente questa ultima glaciazione è iniziata 34 milioni di anni fa, però faceva caldo in partenza, quindi ci è voluto un po' prima che si formassero le calotte e tutte queste robe qui. Okay. E quindi all'inizio non è che, nell'inizio del Cenozoico non era un grosso problema. Tuttavia verso il tardo Cenozoico c'è stato tutto un periodo di lentissimo raffreddamento e inaridimento del clima, che all'inizio semplicemente ha portato a una diminuzione delle foreste e un aumento delle distese di steppe. E quindi già questo ha causato un importante cambiamento nella forma e nelle dimensioni degli animali in generale. Ok. Ovvero prima di questa, i mammiferi, non i dinosauri, i mammiferi più grandi mai esistiti, risalgono a prima di questo periodo qua. O forse subito dopo. Comunque non durante il periodo peso della glaciazione. Esatto, il periodo peso della glaciazione è stato sbatti in generale, perché solo una porzione degli animali era adattato, o comunque aveva in sé delle armi per affrontare il freddo, e non tutti si sono riusciti ad evolvere abbastanza velocemente per affrontare il freddo. Quindi moltissime specie si sono estinte, anche di piante. Per esempio, prima di queste glaciazioni in Europa c'erano le sequoie e le palme, e tante palme, e adesso non ci sono più sequoie. Non ci sono più molti generi che invece ci sono in Asia o in America. E adesso c'è una sola specie di palma nativa dell'Europa, che si chiama la palma nana. Tra l'altro che abbiamo nel nostro bellissimo giardino autogestito. Vero. Un esemplare, sì. Grandissimo. Ecco, quindi quando la prossima volta che guardi quell'esemplare, ammira il fatto che sia il discendente di una dinastia di una stirpe di sopravvissuti guerrieri, okay. Vichinghi. Quindi, dicevamo, 34 milioni di anni fa inizia ad abbassarsi la temperatura, poi si rialza un altro po', per un altro po'. E quindi ci sono un po' di nomi di età, c'è cioè il neogene, ci sono periodi tra una glaciazione e l'altra, giusto? No, questo è prima della glaciazione che importa a noi, perché questo è un periodo in cui ancora non esiste Homo sapiens, cioè magari l'Homo erectus o l'Homo habilis, insomma, questi omi un po' più sfigati, che magari sanno accendere il fuoco, incendiano qualche foresta, ma non creano, sì, non sono quelli super interessanti che fanno l'arte e... Okay. Grosse comunità, come invece è più interessante, come piace a noi. Certo. Poi si arriva all'ultimo punto, cioè al punto più recente di questo ultimo periodo geologico, che si chiama il Neozoico, okay. Il periodo quaternario, che inizia 2,5 milioni di anni fa. 2,5 milioni di anni fa inizia l'età del Pleistocene, è diviso in un po' di parti. E tra l'altro la più recente si chiama il Tarantiano, da Taranto, okay. E ce n'è una delle quattro che si chiama Calabriano, da Calabria. sarebbe interessante poi approfondire un po', ma non è il nostro posto. E vabbè, insomma, il Pleistocene è il periodo in cui sorgono e si espandono sia l'uomo sapiens sia l'uomo di Neanderthal. Ok. E nella parte più antica l'uomo habilis e l'uomo erectus. Ah, quindi prima ancora, vabbè, eravamo proprio delle scimmie. Sì. Quindi quante cazzate. Vergogna. E vabbè, quindi nel Pleistocene, il Pleistocene è il periodo dell'età glaciale vero e proprio. Ok. Quindi la temperatura inizia ad abbassarsi, si abbassa, e quando si abbassa la temperatura fa anche più secco. Cioè piove molto di meno. Esatto, perché hai bisogno di caldo ed energia per far evaporare l'acqua e farla piovere. Certo. Se ce n'è di meno, non piove. Ed essenzialmente inizia in questo periodo un momento in cui la Terra diventa vulnerabile a differenze di esposizione alla luce del Sole, e questo a sua volta, queste fluttuazioni periodiche cambiano l'energia che colpisce la Terra e quindi la temperatura. Ok. Quindi la temperatura fluttua un tot, sì, e quando fluttua sale sopra e sotto una certa soglia oltre la quale le cose iniziano a ghiacciare peso. Ok. E a cosa sono dovuti questi cambiamenti? Questi cambiamenti furono scoperti nel Novecento da un signor, un russo, okay, di nome Milankovitch, che appunto coniò il termine. È un mix tra Mihailovic e Stankovic, esatto, gli insomma, appassionati. Vabbè, scusa. Esatto. Questo Milankovic praticamente ha una lista di tutti i movimenti che fa la Terra. Ovvero dice, ok, la Terra fa rotazione sul suo asse, che ti dà i giorni. Poi sì, c'ha la rivoluzione intorno al Sole. E ok, e questi sono i due base che sanno tutti. Però ci sono un sacco di altri movimentini. Per esempio, l'inclinazione dell'asse terrestre cambia un pochino di anno in anno. E poi si sposta anche in un'altra direzione ancora. C'è una cosa che si chiama precessione degli equinozi. Sì, sì. Sostanzialmente la Terra fa come una trottola quando sta per finire di girare, no? Che esatto, che inizia un po' a varionare da tutte le parti. Okay. E lui vede che la combinazione di tutti questi movimenti comporta che, cioè se li metti tutti assieme, ci sono dei momenti in cui uno dei due emisferi della Terra, e lui si concentra sull'emisfero nord, okay, viene in media un pochino, non tantissimo, non è che c'è notte, giorno e basta, un pochino, viene un pochino esposto di più e un pochino esposto di meno alla luce del Sole. Perché questo dipende dal fatto se i raggi solari colpiscono dritti o obliqui, ok. Notti, esatto. E da quello dipende quanto è forte il Sole. E lui vede che... Scusa? No, niente, dicevo, quindi tutti questi movimenti, spostamenti che fa la Terra al di là insomma, della rotazione, della rivoluzione, fanno sì che ci siano questi diversi periodi, no? Caldo, freddo. Esatto, che sono, sono ben prevedibili, di fatto, e praticamente comportano, se la Terra in un momento in cui è abbastanza freddo, per cui, come si dice, c'è un cambiamento sostanziale della temperatura, perché se l'acqua congela a zero, se cambi tra 25 e 30 gradi non cambia un cazzo. Però certo, se cambi tra 3 e meno 2 gradi, cambia un sacco. Certo. E lui scopre proprio questo, che combinando tutti questi movimenti ti ritrovi un pattern per cui la Terra ha dei periodi più freddi e più caldi, e poi i geologi a quel punto avevano già fatto il loro lavoro, avevano già trovato che c'erano state delle ere glaciali, e va a comparare tutta la datazione delle ere glaciali e vedi che combaciano benissimo. Con i calcoli che ha fatto questo esatto. Studioso. Che storia! Esatto. Ed è interessantissima questa cosa. Sì. Praticamente viene fuori che a quel punto iniziano a studiare ancora di più questa questione e vengono individuate sempre più ere glaciali nell'ultimo periodo. Essenzialmente nell'ultimo milione di anni, su e giù, gli scienziati hanno trovato più periodi che si chiamano periodi glaciali e periodi interglaciali. Ok. Quindi i periodi glaciali sono quelli in cui fa un freddo cane e i periodi interglaciali sono quelli in cui fa meno freddo. E vengono distinti perché nei periodi glaciali i ghiacciai avanzano, nei periodi interglaciali arretrano. Ok. E all'inizio ne hanno trovate quattro, che hanno chiamato Gunz, Mindel, Ris e Wurm, e poi adesso le stanno spezzettando in altri in di più, e ce ne sono 6, 7, 8. Poi okay, ok. Una di quelle cose su cui litigano un sacco. Certo, me li immagino tutti questi climatologi che si come si dice, baruffano. Esatto. Ok. Allora, noi, in onore di questo studioso russo, Milankovic. Ma no, era serbo. Ah, ok. Milutin Milankovic. Esatto. Vabbè, ingegnere matematico e climatologo. Noi comunque dedicheremo alla grande madre patria. La prossima canzone è una nota di affetto e di merito al carissimo compagno Guglielmo, che in tutte le ultime puntate ha sempre mandato lui il play dal computer per la nostra registrazione. Ci sentiamo una canzone scritta, composta, arrangiata, cantata e suonata dal coro dell'Armata Rossa. Yeah. Due minuti di canzone gloriosa e poi continuiamo il nostro racconto. Po. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма передала. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманной гор, выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. И рieccoci qua a pillole di ecologia, sempre su Radio ZM, questa gloria del coro dell'Armata Rossa ci fa percepire quasi un po' il gelo siberiano che accompagna di solito i canti di questa musica. E abbiamo parlato, stiamo parlando di ere glaciali per chiunque si fosse collegato o collegata ora. Abbiamo parlato in generale di come funziona il susseguirsi delle diverse ere glaciali e perché avvengono. E adesso, come facciamo con Dave più o meno da tutte le volte che ci siamo collegati, abbiamo fatto la trasmissione, facciamo un po' uno zoom su cosa succede da noi, quindi in Italia e in particolare in Pianura Padana. Ricordiamo, questo non per campanilismo o per come dire, derive secessioniste o indipendentiste della Padania, anche se ricordiamo libera, indipendente e socialista nel caso, ma per rendere un po' più concreto e più, come dire, anche, voglio dire, per quei poveretti come me che hanno studiato poco di queste cose, che magari sembra una cosa un po' campata per aria, vedere concretamente quali conseguenze ha avuto e come ha modificato anche i luoghi che noi abitiamo. Quindi facciamo finta di tipo girare la rotellina del tempo e andare indietro di 300.000 anni. Iniziamo da 1.000.000. Okay. No, vabbè, nel senso, facciamo un gran mischione di quello che è successo durante l'era glaciale, distinguendo glaciali e interglaciali. Okay. Secondo me è quello. Perché poi è difficile dire, cioè, non è che è difficile, io non lo so. Certo. Che cosa è successo nel Mindel o nel Wurm o nel Guns. Ah, non hai fatto una tesi su la flora dell'Insubria nel Guns? No, scriverò un poema, un'enciclopedia a 10 tomi. Ok. Sulla questione, ma magari quando avrò 70 anni. Per la pensione. Bravo. No, oltretutto ci sta anche dire che il focus sull'Italia e la pianura padana ha senso perché le ere glaciali hanno portato a differenti effetti in diversi posti del mondo. Certo. Per esempio, la prima cosa che ci sta a dire è che nell'emisfero sud, australe, sì, non è successo quasi un cazzo. Perché, nel senso, non hanno avuto grosse differenze di temperatura. Per lo più, le differenze erano di precipitazioni e nel livello del mare. Tuttavia, il fatto che cambiasse la temperatura era estremamente, come si dice, tamponato dal fatto che è quasi tutto mare. Certo. Okay. E quindi mitigava un sacco questi effetti. E mentre invece, per esempio, in Asia e Nord America gli effetti sulla biodiversità sono stati molto meno pesanti durante le glaciazioni. In Europa, ok. Molto meno che in Europa, perché quello che succede durante le glaciazioni è che è l'opposto di quello che sta succedendo adesso, ovvero che con l'abbassarsi della temperatura, sì, le specie che stavano a nord, nel posto di dove sono originarie fa troppo freddo per loro, però si sposta, iniziano a migrare nel corso dei decenni e dei secoli, migrano verso sud. Okay. Se sono animali camminano, se sono insetti fanno più figli nelle zone più a sud, se sono piante i semi che vanno a sud sopravvivono. E è stata una fuga verso sud, nell'emisfero ovviamente settentrionale, okay, boreale. Certo. C'è stata una fuga verso sud e chi riusciva a fuggire se la cavava, chi no si fotteva. E in Asia e in America si può andare dritti verso sud per lunghissime distanze. Mentre invece in Europa, quando inizi ad andare verso sud, a una certa ti ritrovi o le Alpi o il Mar Mediterraneo, certo, che ti blocca. E quindi un sacco di specie sono andate estinte in questo modo. Ok, quindi mi viene in mente una cosa interessante che ora come ora non mi ricordo se ne abbiamo già parlato a pillole di ecologia o no, ma mi viene in mente un libro di Jared Diamond che è Armi, Acciaio e Malattie, dove lui sostanzialmente spiega un po' la, non so se si può chiamare evoluzione della cultura umana, insomma il progredire della cultura umana dalla geografia dei territori, e quindi diceva che l'Eurasia ha una geografia orizzontale, per cui ad esempio si riesce a far crescere piante giapponesi in Italia senza grossi problemi e via dicendo, mentre l'America ce l'ha verticale. E quindi se ha, diciamo, rallentato lo scambio e il commercio tra comunità diverse umane, ha però facilitato il sopravvivere di specie. Sì, migrazioni da nord a sud, perché in fasce verticali l'America. Sì. Cioè la fascia delle foreste sull'Atlantico, poi le praterie, poi un po' di deserto, le montagne e poi c'è la costa pacifica. E quindi tutto poteva muoversi lungo questi corridoi e salvarsi il culo. E quindi per questo hanno 30 specie di querce, 50 specie di aceri, 2000 pini, mentre da noi abbiamo magari 15 querce, 4-5 aceri, 2 frassini, insomma non ne abbiamo così tante, mentre invece quando vai in Asia o in America è un disastro. Studiare gli alberi in Europa, perlomeno gli alberi sono facili, in Asia e America è un casino mostrato. Ma senti, ci sono delle specie, cioè fammi degli esempi di specie che c'erano sia in Europa che ad esempio in America, ma che adesso sono rimaste solo in America mentre in Europa si sono estinte. Questo è difficile da dire perché non lo so, magari non specie, magari generi. Però per esempio dei generi ci sono, se prendi gli aceri, c'è uno dei, ci sono tantissimi aceri in America, okay. E, mentre invece in Europa ce ne saranno 4-5. Per esempio, uno degli aceri che viene piantato molto in Italia, nei parchi, si chiama acero negundo, che è un acero che non ha la foglia da acero, ma ce l'ha con 3 foglioline separate. Okay. Quello originario dell'America. O se no la quercia rossa. O 3.000 miliardi di querce. Il fatto è che non c'erano specie identiche già in partenza. Certo. Già da prima delle glaciazioni, visto che erano state divise da decine di milioni di anni dall'Oceano Atlantico, non c'erano grosse, come si dice, non combaciavano già in partenza. Però la cosa si evince dal numero di specie nei generi. Ok. Va bene, appunto. Quindi torniamo al nostro, diciamo, esatto. Il nostro racconto della glaciazione. Un milione di anni fa in pianura padana. Un milione di anni fa inizia a fare un freddo stronzo, cioè nel corso di qualche migliaio di anni. E quindi quello che succede in Europa è che le foreste spariscono, di fatto, perché fa troppo freddo, perché ci sia una copertura forestale costante. Spariscono però gradualmente, ovvero mano a mano le specie cambiano e vengono rimpiazzate da specie che stanno meglio al freddo. E quello che succede un po' nel tempo, quello che succede muovendosi in alto su una montagna. Okay. Quindi si passa da una foresta, un bosco misto caducifoglie, quindi un bosco con un misto di tante specie di diversi alberi che perdono le foglie d'inverno, a boschi per lo più dominati dal faggio, che ce la fanno a resistere quando fa più freddo, poi ti ritrovi le betulle, e poi i pini e gli abeti, che formano ad oggi formano la taiga, la foresta siberiana, e quindi avevamo la foresta che c'è in Siberia, però c'era a Milano. Ah, okay. Poi è venuto a fare ancora più freddo, e tutti gli alberi sono morti e ci si erano ritrovati delle steppe, per poi finire con la tundra, che è una specie di steppa congelata. Ok, e oggi dove si trova la tundra? Come... La tundra si trova mega a nord, cioè tipo appunto a Vladivostok e nel nord della... non in Siberia, nel nord della Siberia. Ok. In Groenlandia. Nei posti più rieducativi del mondo, in pratica. Esatto. Okay. Nei posti dove, esatto, si impara molto bene a non fare gli infami. E quello si imparava già in Italia, appunto, fino a 20.000 anni fa. E insieme a questo tipo di vegetazione è arrivata anche tutta la fauna che Sì. stava bene in questa vegetazione. Quindi, appunto, nel corso di questi 2 milioni di anni, ma probabilmente anche di più, perché queste erano specie, tu immagina che se hanno iniziato ad esserci calotte polari 30 milioni di anni fa, hanno iniziato ad esserci animali che si avventuravano così a nord e quindi hanno iniziato ad apparire specie più adattate ai climi Freddi. polari. E Ok. quindi nel corso dei milioni di anni sono apparsi i mammut, i buoi muschiati, i vari bisonti, e c'era un rinoceronte, un animale fichissimo, che era una specie di rinoceronte gigantesco con un corno, ma tipo 10 volte più grosso del corno di un rinoceronte Ok. in proporzione alle dimensioni del corpo. Fammelo cercare. Forse si chiamava rinoceronte lanoso. Va bene, quindi animali molto grossi e in pianura padana, quindi è arrivato questo, insomma, ambiente, questo habitat, come una steppa, no? Quindi con Esatto, si chiamano gamberi. steppe, credo che il nome sia steppe dei mammut, perché erano le steppe, erano l'habitat di scelta dei mammut, quindi gli elefanti pelosi Ok. che cavavano al freddo. E Ok. ora, non so di per certo se i mammut siano arrivati in Italia, però ne sono abbastanza certo, diciamo, perché per esempio, in Io comunque Sicilia, mi fido di te, quindi. grazie, no, però comunque ci sono stati elefanti in Italia perché i loro resti si trovano anche in Sicilia, dove Sì, c'erano degli ne elefanti avevi parlato pigmei. anche in una scorsa puntata. Ah sì, ne abbiamo parlato, esatto. Sì. Quegli elefanti pigmei che poi hanno lasciato i teschi fossilizzati più o meno nelle grotte, e quando sono stati ritrovati dai greci, pensavano anche fossero i ciclopi. Che storia. Quindi ci sono stati gli elefanti in Italia e se ci sono stati 9 su 10 erano. Quindi in questo modo estremamente poco rigoroso e ascientifico diciamo che ci sono stati in Ok. Italia. E anche questi rinoceronti lanosi vedo su Wikipedia. Ma non le tigri ai denti a sciabola, quelli erano solo americani. Ok. In Italia, in Europa c'erano tanti lupi, tante le tigri, i leoni, più cose, e soprattutto anche orsi in abbondanza. Magari tigri e leoni, no, le tigri, ma sì, ci saranno stati anche quelli. Ma sì, buttiamoci dentro tutto. Esatto, ci sta. Comunque c'era una fauna bella speciale, diciamo. Ok. Insomma, cosa doveva mangiarsi questi animali prima che arrivassero gli uomini? E invece con la nostra rotellina la spostiamo un po' più avanti, quindi diciamo nel periodo interglaciale si chiama. Esatto, ci spostiamo in uno degli interglaciali, che poi appunto distinguere tra uno e l'altro è una cosa molto, molto più avanzata. Generalmente si può dire che quello che avveniva è che c'erano le avanzate dei ghiacciai e quindi anche di tutti gli altri ecosistemi verso sud, quindi avanzava la steppa e regredivano le foreste, e poi nei periodi interglaciali i ghiacciai se ne andavano e faceva un po' più calduccio, quindi le foreste riuscivano a riespandersi e quindi c'era questo movimento di avanti e indietro delle foreste che è successo un bel po' di volte. Tuttavia, ogni volta andava perduta qualche specie che non riusciva a stare al passo. E quindi gradualmente c'è stato un depauperamento della flora europea. E in una di queste avanzate ritrosi glaciali arrivano anche gli uomini, anzi gli esseri umani, che durante all'inizio nelle prime glaciazioni arrivano appunto l'Homo erectus e l'Homo habilis, e poi vengono rimpiazzati dall'uomo di Neanderthal, che era una specie di essere umano però adattato, evoluto per essere adatto al clima freddo. Ok. E quindi era più nerboruto, più forzuto, più grosso, più peloso, magari, non so, più... Insomma, più che stava meglio al freddo. Sì, un po' più mammut. Sì. E poi, un po' dopo, è arrivato anche l'Homo sapiens, hanno convissuto per un po', e infatti questo lo vediamo dal fatto che anche noi abbiamo un pochino di DNA di Homo di Neanderthal, e finché in un modo o nell'altro l'Homo di Neanderthal è scomparso e non è rimasto solo l'Homo sapiens. Okay. Adesso si dibatte se questo sia stato un cambiamento violento, perché l'Homo sapiens sterminava l'Homo di Neanderthal, o se sia stato solo una cosa che l'uomo di Neanderthal non trovava da mangiare, mentre l'uomo sapiens, che era un po' più sveglio, se la cavava meglio. Okay. E quindi non si sa bene se sia una cosa graduale o no. E quindi appunto l'immagine è questa. Accelerando, vedendo in un modo molto accelerato il periodo glaciale, si vedono ghiacciai che fanno avanti e indietro, la foresta che li segue, con in mezzo un cuscinetto di steppe, okay. E le persone che anche loro vanno avanti e indietro più o meno, perché sui ghiacciai non si vive, però già nelle steppe gli umani ci vivevano tranquillamente, cacciando tutto il cacciabile, a prescindere dalle dimensioni, gli uomini, cioè gli esseri umani a quel punto erano abilissimi cacciatori e non avevano alcun problema ad estinguere localmente i mammut o qualsiasi altro animale di grossa taglia. In quel periodo... Cosa? Dico, poveri loro, i mammut, ma... Eh sì, però così. Sai che bisteccone ti fai. Eh sì. E poi, appunto... E questa è l'immagine dell'Italia. E mentre quello succede, succedono molte cose interessanti, perché questo avanzare e regredire dei ghiacciai comporta moltissime conseguenze. Per esempio, ad oggi, cioè, si pensa, no, è sicuro, si sa che i ghiacciai non coprivano completamente le Alpi, cioè le Alpi non erano completamente sotto il ghiaccio, tutta una enorme cupola di ghiaccio. Okay. I ghiacciai coprivano completamente alcuni picchi, magari, quelli più dolci o quelli più bassi, così. Però nelle Alpi più interne i ghiacciai erano delle lingue che si estendevano nelle valli e le erodevano. Infatti nelle Alpi ci sono moltissime valli glaciali, se non tutte le valli delle Alpi sono glaciali, ovvero queste valli a U in cui il ghiacciaio, appunto, muovendosi raspava via tutto il materiale, tutta la roccia, scavandosi una bella bacinella a U e formando, per esempio, la Valtellina è un esempio perfetto di valle a U, perché è fatta a U. Certo, forse a forma di un'altra lettera sarebbe una tipica valle a... La valle a K, non esistono purtroppo, perché sarebbe interessante. E poi questi ghiacciai appunto arrivavano ad essere nelle loro fasi, nelle loro parti un po' più basse, di dimensioni così grandi da scavare... fino al di sotto del livello della falda idrica, e infatti ad oggi questo ci ha donato alcuni dei laghi delle Alpi, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Garda, il Lago di Iseo, il Lago di altri laghi anche. E questa cosa si può vedere dalle morene invece, ovvero queste morene che sono praticamente il ghiacciaio nell'avanzare fa come una ruspa con che ha la pala abbassata e scava, spinge in avanti tutta una montagna di terra, e quando il ghiacciaio si ritira la terra rimane lì, e quella è chiamata una morena. E una, la più famosa di tutte, è la morena di Biella, penso si chiami, che è questa montagna piattissima, cioè che si vede dall'autostrada quando si va verso il Piemonte. Se guardi verso destra andando guardi verso il nord, c'è un rialzamento piattissimo vicino a Biella, e se guardi dal satellite ha proprio la forma di come se fosse una colata uscita dalla valle. Okay. Insomma, quello è interessante. È interessante vedere che ancora oggi ci sono segni evidentissimi di questa... Ok. Io ti direi, prima di parlare appunto più di periodi più vicini a oggi, anche oggi, insomma, prendendolo dal punto di vista dei periodi glaciali o interglaciali, ti direi di sentirci una canzone dei Cure che si chiama A Forest. Perfetto. Che mi sembra perfetto, ce la sentiamo e poi vediamo un po' oggi e più nel passato più recente. Calling my name. Rieccoci qui, questi erano i Cure, siamo a Pillole di Ecologia, sempre su Radio ZM. Prima di noi, come tutti i mercoledì, c'è stata Zona Rossa e niente, noi oggi parliamo di glaciazioni. Abbiamo parlato di, in generale, da come funzionano, perché ci sono state, abbiamo parlato di come è cambiata la vegetazione, gli habitat in generale, gli ecosistemi con l'andare e il venire delle glaciazioni. Abbiamo fatto un viaggio dal passato più remoto a quello più recente. Quindi vediamo un po' nel passato recente che cosa è successo. Passato recente, diciamo, da l'avvento dell'agricoltura, tipo 10.000 anni. Esatto, dalla fine delle età glaciali, possiamo dire. Ok. Perché praticamente circa 10.000 anni fa, 10-12.000, poi questa è un'altra di quelle cose su cui litigano tantissimo. Che uno dice, ma che cazzo se ne frega, è più o meno lì. Però magari è importante per alcuni avere la data precisa col giorno in cui è finita l'età glaciale. L'età glaciale è finita. No, in realtà non è finita, non è ancora finita. È iniziato l'ultimo interglaciale, l'interglaciale in cui stiamo vivendo tuttora. Quindi è finita una fase fredda, finalmente. L'ultima fase fredda che si è chiamata Wurm, okay. E circa 10.000 anni fa, e con quello si è finalmente formato abbastanza spazio a livello ecologico perché l'uomo sapiens, ovvero noi, potesse finalmente dare il meglio di sé e distruggere la Terra. Perfetto. Quindi cosa succede? Praticamente smette di fare questo freddo bastardo, infame, e l'ambiente diventa molto più favorevole e questa scimmia senza peli che ha imparato così tante tecniche di sopravvivenza per sopravvivere nel freddo infame, adesso ha a sua disposizione terre fertili e tutto il tempo che vuole per svilupparsi un sacco. E quindi con la fine di questa età, dell'età glaciale, iniziano a succedere un sacco di cose, per cui lo sviluppo della civiltà umana accelera velocissimissimamente. Quindi viene inventata la scrittura, l'agricoltura, la ruota e l'allevamento, forse l'allevamento era iniziato anche un po' prima, però vabbè, insomma, iniziano tutte queste skills che vengono acquisite dall'uomo e che ci rendono mega forti. E quindi a partire dalla, come si chiama, il triangolo delle Bermuda, mi viene da pensare, la mezzaluna fertile, Tigre e l'Eufrate, a partire da lì, con l'invenzione, cioè la scoperta del grano, queste nuove popolazioni iniziano ad espandersi ovunque, e soppiantando le popolazioni esistenti nei vari posti. Quindi siamo tutti più o meno figli della Mesopotamia. E appunto si espandono portando con sé tutta la loro cultura. E quindi inizia così il periodo che chiamiamo Olocene, che è appunto il periodo in cui l'essere umano inizia a spaccare i culi. E quindi gli esseri umani arrivano anche in Europa, poco dopo, perché siamo vicini al Medio Oriente, e iniziano a modificare tutto quanto, perché più o meno pochi secoli dopo l'arrivo delle persone iniziano ad esserci le tracce dei primi incendi, delle prime deforestazioni, le prime specie che spariscono qua e là, ma anche i primi segni di arte, i primi segni di cultura, le prime città, magari non città all'inizio, i primi paesi, le prime comunità, i primi, appunto, inizia a svilupparsi e a fiorire la cultura umana, soprattutto intorno al Mediterraneo, quella che noi conosciamo meglio, gli Assiri, i Babilonesi, i Fenici, tutte queste robe qua, e sono tutti felici e contenti. Comunque, dal punto di vista del clima, in questo periodo ci sono ancora delle fluttuazioni, però sono fluttuazioni molto più piccole, perché quei famosi cicli di Milankovic non sono su, giù, sono su, un pochino meno su, un pochino più giù, un pochino più su, insomma... Possiamo dire tipo un po' frastagliati. Esatto, la parola è giusta. Sono tutti frastagliati, quindi ci sono momenti più caldi, momenti più freddi, così. Quindi c'è stato in generale un periodo molto florido, molto favorevole per moltissimi anni. Poi c'è stato, per esempio, verso la fine dell'età del bronzo, un periodo più secco che ha portato a terribili siccità e il collasso delle diverse civiltà che esistevano alla fine dell'età del bronzo, che è una cosa importantissima nella storia del Mediterraneo e delle civiltà occidentali, perché spariscono la civiltà greca antica, gli assiri, i babilonesi, i minoici, insomma tutti questi popoli di cui si studia a scuola, ma tipo prima elementare e poi si dimentica. Ok, quindi praticamente la loro scomparsa coincide con uno di quei momenti di o molto caldo o molto freddo. Esatto, con un momento di un pochino più freddo, quindi non pioveva tanto in quel momento non è che fossero, che avessero i trattori, l'irrigazione e i fertilizzanti, quindi appena pioveva un po' di meno morivano tutti. Quelli che non morivano scappavano, e quindi c'è stato un enorme flusso migratorio appunto dall'Europa occidentale verso est, che ha causato, insieme a terremoti peraltro, un'eruzione vulcanica, c'è stata una combo micidiale che ha portato al crollo di tutte quelle civiltà. Gli unici a sopravvivere sono stati gli egizi. Quello era l'età in cui viveva Tutankhamon. Ok. Che in quel periodo disse la celebre frase che in inglese si dice "Fool me once, shame on me". No, "Fool me once, shame on you. You cannot fool me twice". Okay. Ha detto, cioè, mi avete fregato, siete dei coglioni, non mi potete fregare una seconda volta. E l'ha detto quando diversi popoli hanno attaccato l'Egitto, attaccato, comunque hanno cercato di emigrare in Egitto in modo più o meno pacifico, ce l'hanno quasi fatta, però sono stati sconfitti, e poi Tutankhamon ha mandato le navi, ha fatto totalmente sterminare quei popoli nelle terre loro, è andato ad aiutarli nel paese loro. Vabbè, queste sono alcune vicende che si porta dietro il clima, insomma. Beh, interessantissima questa cosa. È mega interessante, c'è una lezione interessantissima sul collasso la crisi dell'età del bronzo, qualcosa del genere, su YouTube, che consiglio a tutti di vedere. Dura più di un'ora, in inglese, però, ed è una bella mappazza, sì, però è interessantissima. Ci credo. Perché era anche la prima società globale in cui ciascuna civiltà era strettamente dipendente dalle altre, perché c'era chi aveva il ferro, chi aveva il bronzo, chi aveva la porpora, insomma c'erano questi scambi ed erano tutti dipendenti l'uno dall'altro, meno gli egizi. E vabbè, quindi questo è uno dei momenti climatici dell'Olocene. Sì. Un altro momento climatico molto più recente viene chiamato, è un altro momento freddo, okay, e viene chiamato la piccola età glaciale, ed è un momento tra il 1300 e il 1850 in cui la temperatura super recente in cui la temperatura scende di brutto, cioè non di brutto, di tipo un grado e mezzo, e questo può essere dovuto sia ai cicli di Milankovic ma anche a diversi altri fattori, perché per esempio anche le eruzioni vulcaniche che oscurano un po' il sole con le ceneri, okay, sono abbastanza grosse e possono influenzare il clima globale, o l'attività solare, o il movimento delle correnti marine, insomma ce ne sono di cose che... Ok, quindi per tanti motivi comunque ha fatto parecchio più freddo di ora. Un grado e mezzo in meno, in termini concreti, cosa significa? È possibile, vuol dire che i ghiacciai iniziano a crescere in primo luogo, quindi... Tutti i paesi che sono vicini ai ghiacciai, tipo se succedesse adesso, non so, Shampoo Look, Cervinia, non so, i paesini di alta montagna, verrebbero mangiati da un ghiacciaio, che quando hai un muro di ghiaccio che pesa miliardi di tonnellate che avanza, certo, vai a fare parte della morena. E quindi moltissimi paesini delle comunità altomontane sono dovuti essere abbandonati perché c'era troppo freddo, perché mangiati dai ghiacciai. Okay. Poi molti altri eventi vengono registrati, per esempio il Tamigi che congelava anche d'estate. Ok, quindi parecchio più freddo, come dire, quando si parla di non superare i 2 gradi, sarebbe meglio sotto 1,5 gradi in più, come dire, esatto, se 1,5 gradi in meno fa la differenza del genere, chissà in più. Esatto. E per esempio, un altro esempio più locale, anche il Po congelava completamente, e nel 1800 si parlava di questo strano fenomeno degli alberi che esplodevano, perché praticamente quando si riesce a congelare un albero, okay, la pressione al suo interno, perché l'acqua quando si congela si espande, come una cosa che fa scoprire le bottiglie nel freezer, se la stessa cosa succede negli alberi, senti un toc fortissimo, un botto, perché si spacca, cioè non è che esplode in 1000 pezzi, però si forma una spaccatura con una violenza tale che, okay, che lo senti da notevole distanza. E appunto questa si è portata a dire, cioè questa piccola età glaciale ha anche causato notevoli disagi, per esempio notevoli le carestie, perché appunto anche allora non è che fossero maestri agricoltori, quindi anche lì quando pioveva un po' meno e faceva più freddo, sì, certo, aveva meno cibo e morivano tutti di nuovo. E una cosa che si pensa sia stata causata in ultimo dalla piccola età glaciale è stato la rivoluzione francese, perché anche quella è iniziata con un periodo di notevole malcontento dovuto a carestie. C'era meno cibo, la gente era molto meno contenta, poi quella lì ha detto di mangiare le brioche e sono impazziti. Sì, diciamo, per fare proprio un riassunto, come dire, beh sì, ci sta, dai. Un riassunto un po' sopopera, ma sostanzialmente è corretto. E ignorando un miliardo di altri fattori sociali. Però comunque è interessante che si può correlare, come dire, il clima con... Sì, che vuol dire che non è l'unico fattore, come in tutti gli altri casi, però ha contribuito. Diciamo che se avessero avuti tutti la pancia piena, magari si sarebbero lamentati un po' di meno, sì, certo, magari sarebbe successo 20 anni dopo. Sì, sì. Proprio così. E appunto questa la conosciamo come la piccola età glaciale. E una cosa molto interessante è che si possono vedere ancora freschissime le morene prodotte dai ghiacciai durante la piccola età glaciale. Consiglio vivamente a tutti gli ascoltatori, dicendolo con la voce da presentatore, di certo, visitare il ghiacciaio dei Forni, che è il ghiacciaio più grande delle Alpi italiane, che è nel Parco dello Stelvio. Se si va nella Valle dei Forni, che è la valle del ghiacciaio dei Forni, si può vedere tutta una zona in cui praticamente il fianco della valle ha uno scalino improvviso, dove ancora dopo tutte queste centinaia di anni, cioè dopo 150 anni, quasi 200, tra poco sarà il 200° anniversario della fine della piccola età glaciale, tra l'altro. Sarà da staffare una bottiglia di spumante o da congelarla. E si vede appunto uno scalino netto che è dove arrivava il ghiacciaio a quel tempo e dove quindi aveva raspato via tutto il fianco della montagna. Ok. Quindi un altro consiglio agli ascoltatori. E alle ascoltatori. Valle dei Forni. Certo. Valle dei Forni. Sì. C'è okay, anche un rifugio dove si mangia bene. Ok. È un posto okay, bellissimo. E tra l'altro, subito lì dietro, c'è una cresta di una montagna, che finisce, cioè dove finisce la Valle dei Forni, c'è la cresta di una montagna e al di là di quella cresta partendo dalla vetta di una montagna che si chiama Grand Zebru, okay. Si trova la importantissima, la centrale nella storia delle Alpi e della cultura italiana, la valle del Braulio. Pazzesco. Dove il Braulio sgorga dalla nuda roccia. Pazzesco. Zampillando. Zampillando. E senti, tra un diciamo un omaggio folcloristico e l'altro. Una cazzata e l'altra. Arriviamo al giorno d'oggi. Ok. E un'altra cosa interessante è che ci sono stati altri momenti freddi punteggiati tra il 1850 e oggi. Uno di questi avvenne durante, mi sembra, la prima guerra mondiale. Okay. Per cui le persone combattevano la guerra, ma c'erano meno 10 o meno 20 gradi e era stato un disastro assoluto. Ah sì. E invece arriviamo ad oggi e oggi c'è un fattore importantissimo che è entrato in gioco, ovvero noi altri. Perché fino al 1850 il nostro impatto sulla Terra era marginale. Adesso siamo uno dei fattori chiave, se non, cioè, siamo uno dei fattori decisamente più importanti del clima e dell'ambiente mondiale. E quindi il fatto di essere entrati in gioco ha completamente cambiato tutti i programmi del clima mondiale. Quindi gli studi dicono che questa fase interglaciale, quindi questa fase abbastanza calda, sarebbe più o meno finita tra 10 o 20 mila anni. Quindi adesso siamo in un periodo in cui la temperatura ha già iniziato a scendere, in teoria, okay. Dai cicli di Milankovitch, e quindi si sarebbe arrivati a un punto in cui iniziava a fare davvero freddo, tra 10 o 20 mila anni. Tuttavia, se si guardano i grafici della temperatura, negli ultimi 200 anni la linea è più o meno stortina verso l'alto. Però se prendi un grafico di migliaia di anni, la direzione che prende la temperatura è decisamente, cioè non so, sale a 90 gradi verso l'alto. E, ok. E appunto, visto anche tutta la CO2 che stiamo emettendo, è molto difficile dire che cosa ne sarà del prossimo periodo glaciale. E quindi potremmo stare entrando in un periodo climatico che non segue tanto tutti gli altri trend che sono stati seguiti finora. Ok. E di fatto potremmo aver sconfitto, diciamo, il demone di una prossima età glaciale. Nel bene o nel male. Certo. Beh, quindi, insomma, seguendo, diciamo, il calcolo matematico dei vari alternarsi glaciali, interglaciali, glaciali, interglaciali, noi abbiamo un po' scombinato questa cosa. Esatto, cioè ci sarebbe stato un'era glaciale nel 15-20.000 dopo Cristo, e invece magari no. Beh, esatto, chi però, lo sa poi, eh? Esatto, chi lo sa, perché un'altra delle questioni è che tra tutti gli scombinamenti che stiamo causando, potremmo causarne alcuni che per assurdo potrebbero portare a una nuova età glaciale invece. Perché per esempio tutto lo scioglimento dei ghiacciai, soprattutto al polo nord ma anche al polo sud, essenzialmente scombina gli equilibri di salinità degli oceani, perché gli oceani sono più o meno salati a seconda di dove ti trovi, okay. Per ragioni che è lungo spiegare. E per via di questa salinità ci sono delle correnti, come la corrente del Golfo, che portano calore dall'equatore verso i poli. E quando si immette tutta questa acqua dolce, queste correnti possono rallentare se non fermarsi. E quando questo succede, un importantissimo fenomeno di trasporto del calore, che quindi riscalda di fatto l'Europa, il calorifero dell'Europa si potrebbe chiamare in modo più serio, okay. Si spegne. Ah, e quindi giustamente se spegni il calorifero fa più freddo. Eh sì, se ci pensi la Danimarca è alla stessa altitudine dell'Alaska. però la Danimarca e l'Alaska sono diversissime. Napoli ha la stessa altitudine di New York, però a New York nevica ogni anno e fa un gran freddo, a Napoli no. E Milano è all'altitudine del Canada forse, o se non del Canada, del nord degli Stati Uniti, che pazzesco, non è per niente caldo. E dobbiamo tutto questo quasi unicamente alla corrente del Golfo, anche un po' al Mar Mediterraneo, che mitiga sempre, fa bene, però in buonissima parte, soprattutto nell'Europa del Nord, la corrente del Golfo ci salva il culo. Quindi se la fermiamo, può succedere per assurdo che riscaldiamo così tanto che si rompe il calorifero e inizia a fare freddo. Certo. Quindi è tutta da vedere, sarà interessante. Comunque se succede, noi dovremmo essere in grado di viverlo. Se sopravviviamo un'altra cinquantina d'anni, sarà... Magari no, in realtà. Minchia, che peso. Vabbè, a proposito di estinzioni, di cataclismi, eccetera, eccetera, l'ultima canzone è un estratto del film L'era glaciale, titola Cibo che fa sognare. Perché, insomma, descriviamo la scena, sono loro che passano in mezzo a questo canyon dove abitano degli avvoltoi che quando li vedono iniziano a cantare Cibo che fa sognare. Sperando di non ridurci come quegli avvoltoi. Esatto. Una futura età glaciale improvvisa. Esatto, o neanche come i tizi che passano in mezzo. Perché comunque... Esatto. Vai, ci sentiamo la canzone e poi torniamo qua, salutiamo, facciamo gli onori di casa e tutte cose. E poi mi adoravano, e poi mi... Ehi ragazzi! Vabbè... Si può rallentare un poco? Sono stanco morto. Era solo un modo di dire. Se ne stanno appollaiati ad osservarci. Vorrei sapere cosa pensano. Cibo che fa sognare. Ti voglio assaggiare. Tre pasti ogni dì potranno bastare. Due cosce di buon mammut, gote in salmì. Mangiar mi fa cantar, mi fa volar, gloria al mangiar. Cibo che fa sognare. Lo posso un cotto nel miele. Di che con il bene no, non indugiare più. Vai a cucinare il cibo che fa sognare, che fa cascare, che fa volare. Cibo che fa sognare, oh dolci carcasse. La carne più è putrida. Ci va a cacciar. Oh, cibo, mi fai cantar, mi fai volar, mi fai gridar, mi fai cantar. Mi fai giocare. Cibo, mi fai sognare. Ecco, ora sai a che pensano. Sì. Rieccoci qua, sempre pillole di ecologia, sempre Radio ZM. Trovate tutti i podcast, stavamo giusto andando a cercarli prima con Dave, tutti i podcast sul sito di ZAM, nella sezione Radio ZM, potete riascoltarvi tutte le trasmissioni, oltre alla nostra. Oggi abbiamo parlato di glaciazioni, abbiamo parlato di come funzionano più o meno, come si sono alternate nel tempo con periodi più caldi. Abbiamo visto nella storia più recente alcune coincidenze, tipo di brevi periodi più freddi e cambiamenti nelle civiltà umane e via dicendo. E niente, per me è stato veramente interessante comunque. È un argomento interessantissimo. Sì, cioè, poi non so, a me, perché mi metto, non so, svarionando, pensando a sta roba qua, mi crea proprio degli immaginari, cioè che se fossero un disegno sarebbe un disegno fighissimo. Sì, più io me li immagino più come dei video, i video accelerati. Sì, anche. Immaginare le cose così, così ti dà un'immagine più immediata dei processi, ecco. Vabbè, yes. Comunque... Niente. Grazie di averci ascoltato. Esatto, sono grazie a te, David. Più supposte di ecologia che... Perché sono puntate infinite che alla lunga potrebbero sembrare così, però che ci dobbiamo fare? Noi ci diciamo sono sempre sì. Interessantissimi. Sì, esatto. Ma è che noi ci diciamo sempre, facciamo gli spezzoni da un quarto d'ora, 20 minuti, poi ci perdiamo in chiacchiere, però alla fine è bello così. Esatto. Non vi sveliamo l'argomento della prossima puntata, come non abbiamo mai fatto le volte scorse. Sarà sempre di mercoledì sera, l'ultimo mercoledì del mese. Abbiamo saltato il 30 perché siamo stati presi dal cibo e dalle varie cose di questi giorni. Tornerà l'ultimo mercoledì di gennaio. Esatto. Auguriamo a tutti un 2021 molto foriero. Molto foriero di... qualsiasi cosa. Va bene, allora mandiamo la nostra sigla finale e niente, ci risentiremo quasi tra un mese. Yeah. Io. Bella raga. Sono un animalista, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala, prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, dall'ultima festa in un bunker. Ehi, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Ehi, dal tramonto di questo sistema. Ehi, fino all'alba di una nuova era. Ho idea che per l'inquinamento fare la differenziata non sia abbastanza attenta, no? È come se per l'invecchiamento bevi la centrifugata con l'avocado e zenzero. Mi spiace che invece che al buco nello zono pensavo a campare che avevo i buchi in zona, distruggo il mio ambiente per come i rappa noi, sono un incosciente quindi da retta a lui, ehi. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare, cambiare, la mia alza si estingue. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare, ripartire, la mia alza si estingue. Greta Thunberg. La mia alza si estingue. Greta Thunberg. La mia alza si estingue. Greta Thunberg. La mia alza si estingue. Greta Thunberg. La mia alza si estingue. Questa estinzione eclatante andrà un po' come tutte le altre. I ricchi andranno su Marte o su una stazione orbitante. I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno. Ai poveri forse non cambierebbe più di tanto. I gradi si alzano e scende il livello, come ci stessimo avvicinando all'inferno. Il dramma è che scompariranno in tanti, ma finiremo poi per adattarci. Nascosta al buio come scarafaggi in un bunker, come ci diceva Greta Thunberg. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare.